si muove nella mappa. Chi è avanti? Uno. E Natali, sono Antonio. E dimmi Antonio. Capo, ho fatto delle modifiche, ho fatto, vabbè, adesso sono a cosa? Com'è il segnale? Il fondo scala, Ho sollevato l'antenna. Capo, già andava, dai. Adesso mi tolgo i ferri tutto. C'ho la salita a 4 metri, c'ho la salita. Non c'era bisogno, stavo uscendo già forte così come io non noto nessuna differenza perché mi arrivi fondo scala, capito? Pensa tu che c'ho tutti i fatti abbassati. Ehi, fondo scala mi arrivi. Aspetta che attacco 706, a vedere se anda. La radio è rimbombante. Ma non si può regolare il macchinino di quella radio, io non la conosco quella, adesso io non me lo ricordo com'è. Ci aiutano a Pampa, c'è il più lungo. Cosa c'è, il microfono normale? No, è un altro microfono. Ma ti conviene usare il microfono normale con quello? Fate i nostri padri. C'è una radio strana. Non è bella chiara, amico, ma è radio, capito? La preparazione per la venuta del Signore è confusa come radio. Così penso che vada molto meglio. Fa un passaggio più lungo. 1, 2, 3, prova. Sì. Gesù è lì. Così è più chiara, là. Gesù è lì. Magari o devi parlare più da lontano. Fino alla fine dei tempi. Perché era confusa come radio poco fa. Capo, troppo forte era. Vabbè, adesso vado a ritirare i ferri e poi verrò torna, dai. Ehi, già sono qui. Ok. Kappa. Così va bene, non toccare più nulla. Per amore, se vuoi parlare qua. No, non tocco più nulla, no. Adesso penso che sia bomba a tutte le parti. Ho superato gli ostacoli. Sì, avanti. Buongiorno, Natale. Bassino, sei bassino di radio, Gio Marì. Per un po', adesso 1, 2, 3, prova avanti. Adesso già sei tu. Ok, grazie. Con chi sei? È entrato Antonio adesso, che sta andando a pigiare i brani. Ho levato l'antenna. Ah, tu? Ehi, dimmi. Buongiorno. Capo, adesso c'è una salita un po' di più, a 4 metri. Non strano ti sento, come mai? Non ho capito. Ti sento strano. Strano. Se tu scendi a bassi watt. No, perché c'è un'altra radio, c'ho il 48, capito? Adesso hai migliorato. Capo, no, c'ho la 48. Ok, va bene adesso, va bene. Grazie Natalino. Ci sentiamo, dai, buon proseguimento. Siamo magari più tardi, eventualmente. Ok, Gio Marì. Buon tutto. Ok, dai. Io vi lascio che vado a ritirare la roba. Vada. La roba, vado a ritirare tutto il materiale che abbiamo usato. Sì.